Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 5 maggio il sole in regione sorto alle 5.47 tramonterà alle 20.21. Mercoledì ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Lillo Montalto Monella e Armando Mucchino. I titoli. Ha riaperto a Udine in via Bariglaria l'Orto e la Luna, un giardino botanico del tutto speciale. Per il corsivo di Licio Damiani oggi vi riproponiamo l'elogio della rosa. Quanto sono importanti le aree di servizio biologico, che mitigano il clima, offrono riparo e stoccano carbonio e acqua. Per la rubrica del vino i fenomeni osservabili durante il processo di macerazione. Ad Aris di Rivignano, un gigantesco esemplare di Farnia nel giardino di Villa Ottellio. Per lo spazio della gastronomia, di scena i limoni in una versione di torta glassata. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsione del tempo per la settimana entrante, con un breve contributo di climatologia locale, e il proverbio friulano della settimana. Ieri ha riaperto a Udine l'Orto e la Luna, l'orto botanico di via Bariglaria, che è gestito dalla ALPL, un'associazione che si occupa delle malattie respiratorie e anche ovviamente di botanica. Ne parliamo con il presidente, l'allergopneumologo Mario Canciani. Innanzitutto, quali sono le caratteristiche e peculiarità di questo orto botanico cittadino? Ecco, questo orto è un orto che raccoglie le piante autoctone, cioè della nostra zona. Non sono piante che si prendono nei vivai, che vengono da altre regioni o da altri stati, ma nascono qui da noi. E quindi, diciamo, per rappresentare un poco un piccolo campione, perché sono 200 piante divise in alimentari, medicinali e tossiche, un piccolo campione della nostra flora che i nostri nonni utilizzavano molto sia a livello alimentare, in preparazione di minestre, eccetera, sia a livello medicinale. Ecco, com'è organizzato e quali i progetti dell'orto di via Bariglaria? Ecco, prima di tutto devo ringraziare i nostri consulenti che sono stati prima il dottor Danellutto e ora il dottor Favia. E l'altra cosa buona di questo orto è che raggruppa 5 associazioni, quindi volontari di 5 associazioni che abbiamo coinvolto in modo che diciamo, si sta nell'orto, si parla, ci si trasmettono informazioni, si sta nel verde e anche c'è il passaggio di comunicazioni con i bambini. Lo scorso anno abbiamo avuto ben 300 bambini, le scuole principalmente, ma anche diverse famiglie singole che hanno visitato l'orto, che hanno fatto disegni, che hanno fatto delle foto, che hanno pubblicato nei siti delle loro scuole. Quindi un avvicendamento tra anziani che lavorano nell'orto, perché siamo dentro l'orto urbano, cioè l'orto che contiene 17 appezzamenti, l'orto comunale, e quindi ci sono anche i signori che lavorano nell'orto urbano, e quindi c'è un passaggio di consegne tra le vecchie e le nuove generazioni. Ci parlava anche prima di una particolare attenzione, ovviamente, visto di cosa vi occupate, delle malattie delle vie respiratorie. Chiaro, sì, abbiamo puntato nella sezione delle piante medicinali, soprattutto su quelle che interessano l'apparato respiratorio, il pino mugo, la viola del pensiero, l'edera, la verbena, la piantagine o lanciola, poi il verbasco o tasso barbasso, l'echinacea, ecco, questa qua forse è l'unica pianta proprio non autoctona della nostra zona, ma l'abbiamo messa perché è la pianta che è più ricca di sostanze antiossidanti, vitaminiche per le vie respiratorie. È la pianta sacra degli indiani d'America, per esempio. Istruzioni per l'uso, quando si può venire? Noi siamo aperti da metà aprile a metà settembre, potete venire sempre e c'è un numero di telefono oppure andare sul sito www.associazionealpi.com, potete prenotare la visita, uno dei volontari vi accompagnerà. Per Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, raccolti nel volume Vita nei campi, storie, memorie e leggende della campagna, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi riproponiamo Elogio della Rosa, in onda l'11 maggio del 1997. Troppo bella è la rosa che fiorisce in questo mese per non farne un ulteriore elogio e spulciare altri passi letterari che la rendono protagonista. Un unico giorno abbraccia la vita della rosa. Con questo verso il latino decimo Magno Ausonio celebrava il ritorno del tempo delle belle rose così breve, secondo il distico di un altro poeta romano, Orazio. Una magnificenza effimera ma coinvolgente che illumina il creato. Forse è perché contiene la bellezza della vita che fugge, la rosa, e il fiore della poesia. La tenera carnalità dei petali, l'aroma malioso, struggente, evocano la bellezza femminile. Saffo pensava alla fanciulla amata fra un rigoglio di rose. A distanza di secoli, in un'epoca di dolce stil novo, il toscano Guido Cavalcanti raffigurava la sua donna leggiadra come fresca rosa novella. Nell'opera Eugenio Onegin di Tchaikovsky, tratta dal poema di Pushkin, una delle più dolci e struggenti romanze comincia con i versi «Siete una rosa, Tatiana». La leggenda della rosa cominciò migliaia di secoli fa. Forse originaria dell'Estremo Oriente, era largamente coltivata dai faraoni. Dai giardini sul Nilo, cesti di fiori vennero portati a Roma, dove allietavano cerimonie pubbliche e banchetti. I petali erano utilizzati per fabbricare unguenti e aromatizzare vini. Dopo l'eclissi nei tempi bui dell'Alto Medioevo, le rose ispirarono in Occidente la poesia dei trovatori e in Oriente la lirica islamica. La rosa narra i segreti del tutto, secondo uno scrittore arabo. Nella poesia persiana, il trillo dell'usignolo, voce dell'anima, dichiarava l'amore per la regina dei fiori. Misticismo, spiritualità, sensualità ammaliante si fondono nelle corolle che, secondo una suggestiva intuizione del tedesco Borchardt, simili anidi sembrano fermentare nell'intimo di ogni essere umano, si muovono, ribollono di desiderio, si accendono, risuonano, schiumano, risplendono e prendono forma. Il cristianesimo attribuì la rosa alla Madonna e il suo profumo richiama a maggio i ricordi di recita del rosario nelle chiese trasformate in familiari serre. Nessun fiore è stato sottoposto a tante ibridazioni per ottenere le varietà più disparate e bizzarre, fino a trasformarlo in una sorta di gioiello artificiale o in un abito sontuoso senza anima. In un vivaio tra Udine e Martignacco si coltivano le cosiddette rose dei crociati o rose di Damasco. Emanano un profumo intenso di mistero, di favole, di Oriente. Siepi, alberi, aree boscate, fasce inerbite, zone non coltivate sono irrinunciabili aree di servizio biologico di cui ci parla oggi Cristina Micheloni. Di questi tempi in cui le emergenziali decisioni comunitarie hanno spazzato via quel minimo di misure ambientali che salvavano la decenza della PAC nei confronti di clima, suolo, biodiversità e accettabilità da parte dei cittadini, che in fin dei conti sono quelli che finanziano la PAC medesima, aggiungo un dettaglio sulla funzione delle aree non coltivate. Mi riferisco a siepi, alberi, aree boscate, fasce inerbite. Tutti quegli elementi dell'infrastruttura ecologica che in modo silenzioso ed efficientissimo mitigano i venti e l'erosione, danno riparo a diverse specie di vegetali, animali e microbiche, stoccano carbonio ed acqua, mantengono la fertilità e la struttura del suolo, filtrano l'acqua e contribuiscono a mitigare le temperature estreme. Il dettaglio che aggiungo è relativo all'uso delle foglie di queste aree come fertilizzanti. C'è infatti una bella esperienza che attesta come le foglie possano sostituire o integrare l'uso di altri fertilizzanti come il letamo e i pellettati organici, cosa particolarmente efficace per le orticole ma anche per i semi nativi e con qualche adattamento per vigneti e frutteti. Ovviamente dipende da quanto materiale si riesce a raccogliere, che a sua volta dipende da quanto sono grandi le cosiddette aree di servizio agroecologico, da quanti anni hanno gli alberi, da che attrezzatura abbiamo per raccogliere il materiale. Ma come si fa? Si raccolgono le foglie d'autunno inoltrato, eventualmente trinciando le ramaglie o altro materiale più grossolano, e si distribuiscono così come sono sulla superficie da fertilizzare. Considerate che la massa deve essere abbondante, ovvero almeno un 10-15 cm sulla superficie da fertilizzare. C'è anche la variante dell'essiccazione o addirittura della produzione di pellet, ma la quantità di energia necessaria per essiccare o pellettare riduce il vantaggio, quindi meglio usare il prodotto così com'è. Un po' prima della semina si andrà poi a smuovere di pochi centimetri i superficiali il terreno per agevolare le operazioni colturali, ma il tutto nel modo più soft possibile, evitando l'aratura. Da lì in poi si procede come al solito. La massa di foglie mantiene anche l'umidità e impedisce ai semi delle malerbe di trovare la luce e quindi germinare. Tutto questo per un po', poi si dovrà fare comunque qualcosa. La progressiva degradazione del fogliame mette a disposizione i nutrienti in esso contenuti, andando così ad alimentare le colture che avremo seminato o trapiantato. Il fatto che la disponibilità sia progressiva evita anche di perdere nutrienti attraverso la lisciviazione. Ma di che foglie parliamo? Van tutte bene, sono comunque il frutto dell'energia solare che attraverso la fotosintesi le piante trasformano in zuccheri in cui accumulano i nutrienti che traggono dal suolo. Quindi, se avete già degli alberi o un piccolo bosco, usate quello e tenetelo bene. Se dovete partire da zero, considerate di includere piante come lontano, soprattutto se le sono in zone ricche di acqua o ripariali, che non è una leguminosa ma funziona in modo del tutto simile. Ottime ovviamente le leguminose come la robinia, il maggiocciondolo oppure la morfa, ma anche cespugli e alberi non di leguminose. L'importante è costruire un ambiente diversificato e scegliere specie adatte al luogo, in modo da non aver gran bisogno di interventi. I fenomeni osservabili durante il processo di macerazione del pigiato, per la rubrica del vino con il professor Roberto Zironi. Il passaggio nel succo in fermentazione degli antociani e dei tannini dipende da diversi fattori elementari che determinano la cinetica globale della macerazione. I fenomeni sono complessi e non determinano soltanto un aumento regolare delle sostanze estratte, ma in alcuni casi anche una diminuzione della loro concentrazione. In una prima fase della macerazione assistiamo all'estrazione di soluzione delle diverse sostanze per passaggio dei costituenti dalle parti solide del pigiato nella fase liquida. La dissoluzione è facilitata anche dalla distruzione dei tessuti, sia per via enzimatica, sia per la loro frantumazione, che è tanto più rilevante quanto più la pigiatura è intensa. Si devono inoltre considerare altri fattori, quali la solfitazione, l'anaerobiosi, la concentrazione di etanolo, la temperatura e i tempi di macerazione. In una seconda fase assistiamo alla diffusione nella massa delle sostanze estratte dalle parti solide. La dissoluzione si produce a carico dell'interfaccia solido-liquido, ma il liquido solvente diventa rapidamente saturo di costituenti estratti e viene bloccato in successiva estrazione. Per favorire questo fenomeno si deve sostituire il succo dell'interfaccia con un nuovo succo a maggiore effetto estraente, effettuando dei rimontaggi, delle folature e dei periodici delle stage. Per una parte delle sostanze estratte si possono evidenziare dei fenomeni di assorbimento su alcuni costituenti solidi del sistema di macerazione, raspi, vinacce, lieviti e batteri. I raspi favoriscono l'aumento della soluzione dei polifenoli totali, ma anche l'assorbimento degli antociani. La cellulosa delle cellule della buccia assorbe gli antociani e tutte le operazioni che possano provocare un aumento della frammentazione delle vinacce aumentano l'assorbimento. I lieviti possono influenzare il colore del vino mediante assorbimento di antocianine sulle pareti cellulari ed il batterio lattico Enococcus eni è capace di metabolizzare composti polifenolici come acido gallico e antocianine. Durante la macerazione si può infine osservare anche la modifica delle caratteristiche cromatiche della fase liquida. Le condizioni riducenti della macerazione favoriscono una modificazione transitoria e reversibile degli antociani sotto forma di derivati incolori. L'etanolo, prodotto in fermentazione, pare favorire la degradazione della combinazione tannino-antociani. In soluzione idroalcolica, gli antociani liberi sono infatti meno colorati della combinazione tannino-antociani. La quantità di antociani e di tannini che si trova nel vino dipende comunque, prima di tutto, dal loro tenore nella materia prima. Uve ben mature costituiscono la prima condizione per ottenere un vino ricco e colorato. Nel vino si ritrova soltanto un 20-30% dei polifenoli potenzialmente estraibili presenti nelle uve, e la loro concentrazione nel vino dipende da una parte dalla facilità di estrazione dei composti fenolici e dall'altra dai procedimenti di estrazione adottati. Oggi per la rubrica dei grandi alberi l'ispettore della forestale Dario Di Gallo ci parla di una gigantesca farnia a Villa Otelio ad Aris. Prima di conoscere gli ambienti ed i paesaggi della nostra pianura, consideravo con sufficienza queste aree naturali. Abituato ai grandiosi paesaggi delle aree alpine e prealpine, non immaginavo cosa si celasse in questo universo di corsi d'acqua. L'albero che andiamo oggi a conoscere, una farnia, Quercus robur, si distingue dalle altre querce, rovere e roverella, per la forma delle foglie, dotate di un picciolo molto corto, e la larghezza massima nella parte superiore della lamina molto ampia. L'albero si trova nel magnifico parco di Villa Otelio Savornian, nell'antico borgo di Aris, in comune di Rivignano. L'area si trova nel parco fluviale dello Stella, sotto la tutela del sito di interesse comunitario denominato Risorgive dello Stella, facente parte della rete ecologica europea denominata Natura 2000. Il sito in questione rappresenta il più ampio complesso di vegetazione umida, di acqua dolce e paludi, della regione Friuli Venezia Giulia. Il fiume Stella è un corso d'acqua caratterizzato da una serie di peculiarità che lo accompagnano nel lento tragitto verso la laguna di Marano. Il bacino di risorgiva che lo alimenta, disteso fra Codroipo e Palmanova, è caratterizzato dalla fuoriuscita spontanea delle acque sotterranee, che dà vita ad una moltitudine di rivoli, canali, fossi, che via via si uniscono dando origine al fiume Stella. La suggestione del parco forestale richiama alla nostra memoria le sterminate foreste planiziali che ricoprivano, prima dei Romani, la pianura padana. E la farnia costituiva l'ossatura di questa foresta, perennemente semisommersa. Alberi come questo, o anche più grandi, erano diffusi ovunque. Oggi, ammirare la possenza di questo albero ci fa sognare. Con una circonferenza di quasi 4 metri ed un'altezza che sfiora 25, l'ampia chioma globosa che ci sovrasta e sentiamo tutta la forza contenuta di questa specie. Roberto Zottar, nello spazio della gastronomia, ci suggerisce una ricetta per valorizzare al meglio i limoni. In questi giorni, girando per i garden, ma anche in alcuni giardini privati, si vedono esposte delle bellissime piante di limone, rigogliose, con foglie lucide. I grossi limoni naturali, giallo intenso, a buccia spessa, profumatissimi, invitano a preparazioni culinarie. Mi ricordo ancora in Costiera Amalfitana il sapore delle mozzarelline di bufale fresche cotte alla griglia su foglie di limone. Oggi vi parlerò allora di una torta da credenza al limone. Le torte da credenza sono dolci che le nostre nonne preparavano e che potevano essere tranquillamente conservate per qualche giorno senza bisogno di frigorifero e senza perdere in bontà. Sto parlando di ciambelloni, crostate, torte sabbiose o anche torte mitteleuropee come la Sacher, la Dobos o la Pischinger. Torte che non passano mai di moda per la loro genuinità e per l'anima semplice. La torta di oggi è una torta umida, profumatissima e glassata, che per alcuni anni è stato un successo, ma anche un tormentone, in un famoso forum di cucina che è conosciuto da tutti come Betty Torte, dall'amica Elisabetta che per prima ne ha parlato in rete. Montate molto bene con le fruste 250 g di burro ammorbidito e aggiungete prima 250 g di zucchero e poi una alla volta 3 uova grandi amalgamando bene. Unite anche la scorza grattugiata di 3 grossi limoni naturali e il succo di mezzo limone. Unite con delicatezza 250 g di farina setacciata con mezza bustina di lievito per dolci. Versate in una tortiera tonda da 24 cm a fondo mobile, imburrata e infarinata, e cuocete in forno caldo a 180 gradi per 3 quarti d'ora circa. Vale sempre la prova dello stecchino. Preparate uno sciroppo caldo con il succo di 2 limoni e mezzo e 60 g di zucchero a velo. Assaggiatelo e se è troppo aspro, dipende dai limoni, aggiungete ancora zucchero. Quando la torta sarà cotta, togliete il bordo della tortiera e lasciate il dolce sulla base. Prendete una siringa da farmacia senza ago e fate tante punture di sciroppo nella torta ancora calda. Non importa se si vedranno i buchi perché verranno ricoperti dalla glassa. Quando la torta sarà ben fredda, spostatela delicatamente su una gratella e magari aiutandovi con una spatola, colate e spalmate sopra e sui bordi una glassa fluida fatta con 150 g di zucchero a velo e con 2 o 3 cucchiai di succo di limone. A piacere si può usare anche un buon limone limoncello. Lasciate riposare quindi la torta fino a quando la glassa si sarà consolidata. Spostate la torta su un piatto da portata e servitela così o decoratela con fette di limone candite. E nulla vieta di fare anche la variante all'arancia. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,90 a 20,10 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 19,50 a 20 euro, l'orzo peso specifico 62,65 tra 18,70 e 19,20 e la soia tra 46,30 e 46,80. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 4,90 euro il quintale e la soia di soli 10 centesimi. Nel comparto dei prodotti caseari, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 48,50 e 51 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine, nel comparto degli avi cunicoli ritorna il quadro congiunturale e i polli a terra vengono quotati da 1,10 e 1,14 euro il chilo IVA esclusa. Le anatre da 3,10 a 3,20, i tacchini maschi da 1,58 a 1,60, le faraone da 3,17 a 3,25, i conigli di oltre 2,5 kg da 2,05 a 2,11, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Sergio Nordio, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Aprile si è presentato con temperature molto altalenanti. Nelle prime due decadi i valori medi sono stati molto elevati, da 2 a 3 gradi sopra la norma, mentre l'ultima decade è stata più fresca, con quasi 3 gradi sotto la media. Da rilevare inoltre che nell'ultimo giorno del mese è stato misurato un nuovo record assoluto in pianura, con 21 gradi e mezzo di media, valore più consono a giugno inoltrato piuttosto che ad aprile. Il cumulato mensile di pioggia registrato in aprile è stato in genere sulla regione leggermente inferiore al normale, specie su pianura e costa, con un -20-30%, più abbondante del 10-20% solo sulla fascia prealpina e sul Carso. La località più piovosa è stato Borgo Cilia di Meduno, in provincia di Pordenone, con una sommatoria mensile di 250 mm, che ha superato in questo mese le rinomate capitali della pioggia delle Prealpi Giulie. La prima giornata del mese è stata la più piovosa, con valori fino a 150 mm in 24 ore registrati sulle Prealpi Carniche, mentre il numero di giorni di pioggia è rimasto in linea con la climatologia. Ora la timida rimonta anticiclonica, che ci interessa oggi, non riuscirà però a garantire stabilità. Già domani inizierà ad avvicinarsi una nuova depressione atlantica, che ci interesserà poi principalmente fra martedì e mercoledì. Domani mattina il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, ma dal pomeriggio, con l'afflusso di correnti sudoccidentali più umide, sarà probabile un aumento della nuvolosità, specie sulla zona montana, con possibili piogge e dei rovesci temporaleschi, che verso sera potrebbero interessare successivamente anche la pianura. Sulla costa soffierà vento moderato da sud. Martedì tempo instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso, rovesci e temporali sparsi su tutte le zone. Le piogge probabilmente saranno più abbondanti sulle zone interne della pianura e sulla zona montana. Mercoledì ancora nuvolosità variabile, specie al mattino, con possibili piogge residue. Dal pomeriggio sera probabilmente soffierà bora moderata sulla costa. La seconda parte della settimana, fra giovedì e sabato, sembra essere caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con l'afflusso in quota di correnti settentrionali più secche e la presenza di bora moderata sulla costa. Le temperature rimarranno stabili, con valori nella media del periodo. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. In mai las cerciai, in giunti emplai lupugni, in avost emplai lucos. Riferito alle fragole, si può tradurre in maggio le assaggiai, in giugno riempì un pugno, in agosto riempì una gerla. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Lillo Montalto Monet, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato?